cattivi dei giovanotti. Tornerete a far presto le panze, tornerete a scherzare, a ballare, a scherzare, a ballare. E il caffè, cioccolata, giornina, giudizio, sorbetti, confetti, giornina, giudizio. Troppo dolce comincia la cena, il navarro potria terminarsi, il navarro potria terminarsi. Se pulvaga brillante zermina, la bricona fa festa. Sei pur cara già nota Sandrina, no, pur che ricada la testa. Il rosetto mi fa stralunato, la bricona fa festa, il cervello allo fare. Quel vasetto mi fa salutare, mi bisogna cervello da fare. Quel vasetto mi fa salutare, mi bisogna cervello da fare. Cervello da fare, mi bisogna cervello da fare. Venite pure avanti, vezzose maschere. Scusiamo, scusiamo, Sì, signore. Ma credete? Cori, cori, cori, cori. Ah!